Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e otto minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, Consiglio dei Ministri, incentrato soprattutto, anche se non solo, su tematiche economiche, e poi conferenza stampa del Ministro Tremonti. Non è arrivato il nome del nuovo Presidente della Consob, anche se, come sentiremo, lo stesso Ministro Tremonti ha detto che in realtà il nome c'è, non è un mistero che l'uomo candidato sia l'attuale vice ministro Giuseppe Vegas, però la decisione non è stata presa in questo Consiglio dei Ministri. Ancora, per quello che riguarda invece la giornata, da segnalare una borsa deludente soprattutto a Milano, meno 1,3% Milano contro uno 0,2% di Parigi, un meno 0,2% del Dow Jones, un Francoforte più 0,2%, Londra più 0,2%, insomma noi perdiamo l'1,3% soprattutto per i titoli bancari, di nuovo sotto pressione. Monte dei Paschi meno 4% come UbiBanca, Intesa San Paolo meno 3,1%, Unicredito meno 3%, Popolare di Milano meno 2,4%, Mediobanca meno 2%, e sostanzialmente il Banco Popolare e Fondiaria Sai perdono un po' meno, perdono l'1,3%. Male oggi anche Telecom, che di nuovo che perde il 3%, e anche A2A meno 1,80%. Chi va bene, lo sapete, è il nostro mistero. Fiat continua ad andare benissimo, più 2,1%, vicino ai 13 euro per azione. Exor più 1,6%, sopra i 20 euro per azione, a 20,15 euro. Il miglior titolo è Tenaris, più 3,2%. Notizie arrivano invece dai mercati non borsistici, ossia l'oro ha segnato un nuovo record, ormai tranquillamente viene dato a $1,400 all'oncia, il petrolio a 86,7, l'euro invece 86,7 dollari al barile. L'euro è a quota 1,40, per cui non a quota 1,42, ma sempre alto. Parleremo di questo, parleremo anche di alcune indicazioni arrivate dal governatore della Banca d'Italia Mario Draghi. E poi, per quello che riguarda i temi di questa puntata, nella seconda ora ci occuperemo del Veneto, inteso come danni creati dall'esondazione dell'alluvione, oltre un miliardo, a questo punto sono le prime stime. Chiaramente il governatore Zaia dice che i primi 20 milioni arrivati sono solo l'inizio. C'è un appello oggi importante sul Corriere della Sera di varie personalità del mondo dell'impresa e della cultura per non essere lasciati soli e anche ripensare in qualche modo il modello produttivo, una nuova cultura della prevenzione e della salvaguardia che coniughi amore per l'ambiente e innovazione. E ne parleremo con diversi esponenti, con uno scrittore, con un osservatore della regione, perché da più parti si è detto: ecco, questa alluvione, soprattutto riguardo la parte vicentino e confine con la parte veronese, ha dimostrato che il modello del nord-est è un modello vulnerabile, un modello che non può più essere chiamarsi fuori da quello che è il resto del paese. Abbiamo notato, forse sbagliando in alcuni casi, quasi un compiacimento su anche un modello come quello del nord-est: non regge più, non avete nulla da insegnarci. Di questo parleremo nella seconda ora, perché il tema è economico e non solo. 349-238-6666 per i vostri sms. Partiamo rapidamente con le altre notizie in breve. Al di là di oro e petrolio, oggi la Banca Centrale Giapponese ha tenuto i tassi fermi allo 0,0%, e poi è arrivata invece una risposta, quasi una lezione della Cina agli Stati Uniti. Perché? Perché la Cina oggi ha respinto con forza l'idea proposta dagli Stati Uniti di mettere sul tavolo del prossimo G20, che si terrà la prossima settimana a Seul, dei limiti fissi agli squilibri nel commercio internazionale. E ha detto il vice ministro cinese agli esteri: anche noi vorremmo vedere conti più equilibrati, però Il problema non si può affrontare semplicemente fissando artificialmente un obiettivo numerico, che non può che ricordarci il periodo delle economie pianificate, cioè delle economie comuniste. Beh, il massimo, no? Che un vice ministro cinese dica il progetto americano ricorda quello delle economie pianificate di stampo sovietico comunista, è bellissimo, ma non basta, perché poi ha anche aggiunto: se l'America vuole veramente e ha veramente a cuore la ripresa globale, deve spiegarci perché la sua banca centrale, la Federal Reserve, due giorni fa ha annunciato, ne abbiamo parlato a lungo, un nuovo programma di acquisto di titoli di Stato americani che di fatto cosa creerà? Immetterà sul mercato americano 600 miliardi di dollari di moneta fresca, di liquidità. E questo sappiamo che crea bolla di liquidità, crea rischio inflazione, insomma crea squilibri, crea un dollaro basso. E dice la Cina, insomma, se veramente ha a cuore la salute della ripresa globale, ci spieghi perché intanto continua a fare queste politiche che inondano di liquidità il mercato americano. Buone notizie invece arrivano dall'America sugli occupati: 150.000 occupati in più, meglio dei 60.000 in più previsti, e quindi buono il dato. La disoccupazione americana è ferma così al 9,6%. E Obama parla di dato incoraggiante per la ripresa e dice di essere aperto a ogni idea per accelerare la ripresa stessa. E poi veniamo all'Italia, il numero uno della Fiat, Sergio Marchionne, che mentre riceveva il premio Picco della Mirandola, a Mirandola appunto nel Modenese, ha detto: noi rafforzeremo la nostra presenza, le nostre radici in Italia. Dopo la mia intervista a Fabio Fazio, c'è stato un vero e proprio processo alle intenzioni, chiediamo a tutti di lavorare insieme. E poi sulle polemiche, perché ha incontrato Bonanni e Angeletti, cioè Will e CISL, CISL e Will, e non la CGL di Susanna Camusso, ha detto: non ho ricevuto nessuna informazione, incontrerò la Camusso quando me lo chiede. Intanto, visto che lunedì 8 novembre arriveranno anche i conti della Chrysler, gli analisti prevedono che la perdita trimestrale sarà inferiore, che sarà la perdita più bassa degli ultimi 18 mesi, da quando il gruppo è stato salvato dalla bancarotta. Si stimano 130 milioni di dollari di perdita. Dicevamo delle parole del governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi. Dice: l'Italia è un bivio tra stagnazione e crescita. È intervenuto a un convegno della Facoltà di Economia dell'Università delle Marche, dedicato all'economista Giorgio Fua. Ha detto: la produttività italiana è deludente, ed è deludente anche al nord, è un problema per il paese, stiamo perdendo competitività rispetto agli altri paesi europei, e occorrerebbe stabilizzare i precari per migliorare la produttività. Sono ormai al 12% i lavoratori irregolari, cioè quelli non stabilizzati, e tutta questa inerzia del paese, questa difficoltà del paese a riprendersi sta colpendo soprattutto i giovani. Sentiamo questo brevissimo passaggio che siamo riusciti a strappare, in cui Draghi ricorda come la ricchezza di un paese è spesso frutto anche di decisioni passate. La ricchezza è il frutto di azioni e decisioni passate. Il PIL legato alla produttività è frutto di azioni e decisioni prese guardando al futuro. E poi un dato che ci ha colpito, una ricerca realizzata dai giovani imprenditori della Confapi, dal Centro Studi Sintesi: ci sono sempre meno giovani alla guida delle aziende italiane. Negli ultimi 5 anni gli imprenditori giovani, cioè sotto i 30 anni, sono il 6% del totale, ma sono calati del 17%. E questo non perché si è venuto meno l'appeal, il desiderio di guidare un'impresa. Infatti 4 giovani su 10, il 44%, sognano infatti nel futuro come lavoro di guidare un'azienda. Per cui, da un lato, dice infatti il presidente dei giovani imprenditori di Confapi, Dice: stiamo vivendo una situazione paradossale. Se da una parte restiamo un paese con una forte vocazione all'impresa tra i giovani, dall'altro stiamo riducendo il numero delle aziende guidate da persone che hanno fino a 35 anni in realtà. Allora, vedo già molti messaggi al 349-238-6666 sul tema del Veneto, del Nord-Est. Abbiamo solo fatto presente che, al di là del dramma vero e dei costi di cui parleremo, c'è stata sulla stampa in questi giorni una tendenza a dire in sostanza: ecco, il modello del Nord-Est non regge più, ecco, anche quella regione vulnerabile non può chiamarsi fuori. E di questo vogliamo parlare, perché abbiamo osservato, forse sbagliando, un leggero compiacimento da parte di altri osservatori, come dire, anche voi avete i vostri problemi sul territorio, non potete chiamarvi fuori. Abbiate un po' di pazienza, ci arriviamo. Adesso però vorrei partire con il primo tema, ossia il Consiglio dei Ministri di questa mattina, che ha varato il pacchetto sicurezza, per la lotta alla criminalità, anche la liberalizzazione delle connessioni wifi e lo stato di emergenza per le zone colpite dal maltempo, e poi presentato il via libera al piano Europa 2020, nessuna decisione invece per quello che riguarda il presidente della Consob. E allora parliamo del Consiglio dei Ministri. Allora, la legge di stabilità ha avuto il via libera dal Consiglio dei Ministri lo scorso 14 ottobre. Ricorderete mezz'ora di non discussione, malumore forte di alcuni ministri come Bondi e Galan, e Tremonti allora assicurò che dopo la fase del rigore sarebbe scattata una fase 2 dedicata allo sviluppo e articolata in 5 punti: il nucleare, la pubblica amministrazione, il sud, i rapporti sociali e il fisco. Vediamo quello che è successo oggi. Allora ci colleghiamo con il nostro Vincenzo Miglietta. Vincenzo, buonasera. Buonasera ai nostri ascoltatori. Partiamo per punti. Allora, il presidente della Consob, che manca da 4 mesi e 10 giorni, 130 giorni, sembrava che oggi dovesse arrivare il nome. Cosa ha detto Berlusconi? Berlusconi ha detto che farà il nome quando in effetti il Consiglio dei Ministri avrà deciso sul candidato, e probabilmente se ne parlerà al prossimo Consiglio dei Ministri, questo nell'ufficialità del Presidente del Consiglio, contattando poi vari uffici stampa, persone sempre nell'ambito del governo, ci hanno confermato che il nome di Vegas, che era il candidato almeno entrante oggi nel Consiglio dei Ministri, è tornato un po' sulle retrovie, sarebbe tornato d'attualità anche il nome di Catricalà, ma nell'ambito della nomina del Presidente della Consob rientrano anche tutti i movimenti politici del momento, quindi il braccio di ferro Berlusconi Fini, ricordiamo che il Presidente eventualmente dell'Authority avrebbe anche l'indicazione del Presidente della Camera, quindi dello stesso Fini, e quindi ci rendiamo conto come in questo momento anche la componente finiana sia determinante a cascata nelle varie nomine istituzionali. Quindi un blocco in questo momento più politico che non sul nome, anche se tu dici che è ritornata fuori l'ipotesi Catricalà, mentre appunto ieri sera sembrava abbastanza definita l'ipotesi Giuseppe Vegas. Andiamo su altri temi. Accenno del Presidente del Consiglio anche nell'illustrare il Piano Nazionale per l'Europa 2020 al debito. Sì, è così, perché il Piano Nazionale per l'Europa al 2020 ci rendiamo conto che è un orizzonte temporale abbastanza lungo, che contiene quindi vari obiettivi per il nostro paese su occupazione e su infrastrutture. Il Presidente del Consiglio ha detto che il governo sta facendo tutto il possibile, ma sull'Italia, non per colpa di questo paese, ha ricordato, grava il debito, ce lo portiamo avanti da decenni, ma su questo possiamo ascoltare proprio il Presidente del Consiglio. C'è un vincolo che è quello del debito pubblico, che sappiamo che abbiamo ereditato e che pertanto è qualcosa che grava come una cappa su tutta l'attività del governo e praticamente su tutto il paese, e invece gli obiettivi li abbiamo individuati in 4, e sono le questioni essenziali: la questione del sud, del meridione, la questione nucleare, la questione fiscale e poi la questione che possiamo definire legale, e quella cioè soprattutto della libertà ad operare, della libertà dall'oppressione legislativa e dall'oppressione fiscale. Ecco, credo che non ci siano altre cose da aggiungere, perché sennò dovremmo aprire una discussione senza fine. E allora, Vincenzo, così il Presidente del Consiglio. Poi c'è stata invece anche la conferenza stampa del Ministro Tremonti, e Tremonti ha toccato un insieme di temi. Partiamo dal concetto di stabilità ribadito e di copertura di tutte le voci. Poi però ha detto anche che sulla finanziaria, se ho ben capito, resta l'ipotesi della fiducia, di porre la fiducia. È così, chiariamo subito quest'ultimo punto. Lui, Tremonti, ha confermato che rimane quest'ipotesi per quanto riguarda, ecco, la possibilità da parte del governo di porre la fiducia. La novità di oggi è che lo stesso Tremonti ha detto la legge di stabilità, che ha fatto l'esordio quest'anno, lo ricordiamo, al posto della vecchia finanziaria, quindi un qualcosa di snello, solo tabellare, torna ad assomigliare alla vecchia manovra economica, in quanto torna centrale, secondo Tremonti, il ruolo del Parlamento, la possibilità di presentare un emendamento in commissione bilancio che anticipa nei tempi dell'esecutivo a questi giorni, quindi un emendamento per lo sviluppo. Su questo abbiamo 1 miliardo per l'università, 850 milioni per il salario di produttività e circa 150 milioni per gli ammortizzatori sociali, quindi si passa da una legge tabellare alla vecchia finanziaria. Questa è un po' la novità del giorno, ma ascoltiamo Tremonti proprio sui fondi per l'università. L'emendamento sull'università, 270 milioni, spostati da una tabella all'altra, perché se sei in commissione questo puoi fare. Noi abbiamo risorse, pensiamo, e comunque il fabbisogno è 1 miliardo. Allora, perché fare 270 in un modo abbastanza limitato quando puoi fare 1 miliardo in un modo lineare? Penso che nell'emendamento ci sarà 1 miliardo per l'università e poi quanto riteniamo, stimiamo necessario per gli ammortizzatori sociali, per i contratti di produttività e così via. Cosa resta della vecchia legge di stabilità? Il concetto di stabilità, e cioè dire tutte queste nuove voci, come sarebbe stato nel decreto, così sarà nell'emendamento, saranno tutte coperte. E quindi sarà un corpo che contiene voci di impegno, ma anche voci di entrata. Stiamo lavorando a questo, l'impegno è evidentemente quello alla stabilità come coperture di tutte le voci. Non possiamo deviare dalla linea del rigore. Se si fa tutto con un solo testo e prima, è meglio che fare con due testi e dopo. Così Tremonti, che ha anche scherzato perché gli hanno chiesto se c'era qualche idea nuova sulle coperture della legge finanziaria, ha detto vendere le frequenze delle telecomunicazioni è un'ipotesi, anche se ieri il ministro Romani ha detto ancora non ci sono frequenze da vendere. E poi ha scherzato: se avete qualche idea sulle coperture mandatecela via fax. Sul piano 2020, Vincenzo, insomma, Tremonti ha detto che il documento è simile a quello degli altri paesi. Chiariamo anche, perché ce lo chiedono alcuni ascoltatori, cos'è questo piano 2020. Sì, questo piano 2020, lo abbiamo anticipato poc'anzi, è un piano indubbiamente a lungo termine, per cui concretamente è difficile che abbia molti contenuti. È un'attuazione, sì, certo. È il piano 2020 per l'Europa, certo. A lungo termine, in funzione di quanto ci chiede l'Europa, ma comunque contiene obiettivi di occupazione, obiettivi di sviluppo per quanto riguarda il prodotto interno lordo, obiettivi di contenimento del debito, investimenti in infrastrutture. Insomma, l'architrave di come potrebbe evolvere il nostro paese. Sì, potrebbe. Conti permettendo. Assolutamente. Sentiamo allora anche il ministro Tremonti sul piano 2020. Abbiamo fatto una quantità molto rilevante di riunioni, di lavoro, a volte pubblici, a volte riservati, con la Commissione europea, tra di noi, con forze rilevanti del mondo economico e sociale, e nell'insieme credo che il nostro documento sia all'altezza di quello degli altri e all'altezza delle aspettative che dagli altri ci vengono. Andrea Ronchi ha detto, il ministro Ronchi ha detto, da qui inizia una fase di discussione che sarà in Parlamento con le forze economiche e sociali e anche nelle sedi scientifiche e accademiche che avranno interesse a contribuire a questa discussione. Allora, Vincenzo Milita, c'è stato anche un siparietto con la Prestigiacomo, perché prima uno scontro di nuovo durante il Consiglio dei Ministri, poi il dottor Monti e il Prestigiacomo gli ha chiesto scusa e lui è stato commosso. Che è successo? Sì, immaginare Tremonti commosso è di per sé uno sforzo, ma comunque ci riferiamo alle lamentele sempre della Prestigiacomo insieme ad altri ministri recentemente sulle disponibilità dei vari dicasteri, laddove invece sono arrivate le assicurazioni da parte del ministro, evidentemente il ministro Prestigiacomo ha avuto un rapporto con lo stesso ministro, avrà ringraziato non si capisce perché c'è il ministro, ecco. Sì, ecco, sì, vabbè, c'è stato un momento di tensione in cui la Prestigiacomo avrebbe detto a Tremonti in consiglio: non dire cretinate, piantala di trattarci come scolarette, non siamo a scuola, siamo tutti ministri, perché Tremonti le aveva detto sulle dotazioni per l'ambiente, poi te lo spiego in privato, insomma un po' di tensione, tanto che Tremonti è anche uscito dalla sala e poi è rientrato dopo 10 minuti, insomma tutto chiuso, almeno questo, grazie a Vincenzo Miglietta. Nel giorno in cui però da indiscrezione sembra che a questo punto il Consiglio dei Ministri ha dato via libera alla nomina dell'Agenzia per la Sicurezza sul Nucleare, il presidente, da fonti di settore si apprende, sarà l'oncologo Umberto Veronesi. Grazie Vincenzo Miglietta. Grazie. Nel frattempo, alcuni di voi ci hanno scritto per capire che cosa avesse detto esattamente il Fondo Monetario Internazionale ieri, lo abbiamo ricordato nelle nostre notizie in breve, quando ha detto, insomma, gli stati a livello globale hanno fatto un forte sforzo nel ridurre i deficit generati dalle misure anticrisi, ma devono fare maggior chiarezza sui piani di rientro e sulle riforme a lungo termine. Siccome il documento è contenuto nel Fiscal Monitor del Fondo Monetario, diffuso appunto ieri, il nostro Enrico Pagliarini ha raggiunto e intervistato Carlo Cottarelli, che è direttore del Dipartimento Finanza Pubblica del Fondo Monetario, ma lo facciamo sentire dopo il meteo e la pubblicità e poi chiaramente anche la borsa, che ha chiuso, vi dico subito, meno 1,41%, Milano è decisamente la peggiore, le altre perdono tra lo 0,1% e lo 0,2%, il motivo si chiama di nuovo banche, pesantemente in calo Monte dei Paschi e UbiBank perdono oltre il 4% oggi. 349-238-6666 per i vostri sms e il meteo. ...17:35, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dicevamo allora dell'intervista del nostro Enrico Pagliarini a Carlo Cottarelli, direttore del Dipartimento Finanza Pubblica del Fondo Monetario Internazionale, sull'andamento dei deficit dei vari paesi osservati dal Fondo Monetario Internazionale. La tendenza principale è che dopo 2-3 anni di aumento di deficit nel 2008, 9, 10, il 2011 sarà caratterizzato da una riduzione in generale dei deficit. Nel 90% dei paesi si avrà una riduzione del deficit nel 2011. Questa riduzione del deficit però non è sufficiente per stabilizzare il rapporto tra debito e PIL, che continuerà a crescere anche il prossimo anno. Voi naturalmente analizzate anche l'Europa, la situazione europea e quella italiana. A tal proposito, quali sono le conclusioni alle quali siete giunti? La situazione dell'Europa è simile a questa tendenza generale. Anche in Europa ci sarà una riduzione in generale dei deficit, naturalmente in misura molto diversa tra paesi che hanno deciso di anticipare l'uscita fiscale, come la Francia e il Regno Unito, dove ci sono riduzioni del deficit piuttosto forti, e paesi dove l'aggiustamento è più basso perché il deficit stesso è aumentato di meno, e tra questi mettiamo sia l'Italia che la Germania. Tutti questi paesi poi hanno introdotto, hanno pubblicato piani di aggiustamento a medio termine che dovrebbero gradualmente prima stabilizzare il debito rispetto al PIL e poi ridurlo. Senta, c'è una correlazione diretta tra queste misure e la ripresa economica o no? Ma noi crediamo che questa riduzione dei deficit a partire dal prossimo anno sia compatibile con una continuazione del processo di crescita, fondamentalmente perché è una riduzione che rispetto ai bisogni di lungo termine della finanza pubblica è relativamente graduale. Nella media dei paesi avanzati la riduzione del deficit è nell'ordine dell'1% del prodotto interno lordo, quindi qualcosa che è sopportabile all'economia tenendo conto delle aspettative attuali nella crescita del settore privato. Le faccio un'ultima domanda sui rischi. Quali sono quelli che voi evidenziate, in modo particolare guardando la situazione europea e italiana? Ci sono dei rischi da un lato che derivano dal fatto che la ripresa economica sia inferiore a quella che attualmente si prevede, e in questo caso la nostra prescrizione è che i paesi lasciano operare quelli che si chiamano gli automatic stabilizers, gli stabilizzatori automatici, e possono anche ridurre il passo nella riduzione del debito pubblico, del deficit pubblico. Un altro tipo di rischio però è quello opposto, che invece la finanza pubblica si deteriori ulteriormente, si deteriori troppo, e che questo possa creare problemi sui mercati. Nel qual caso i paesi che non hanno spazio per espandere la politica fiscale dovrebbero stringere più del previsto. Allora, vedo che chi scrive, insomma, questa ripresa che è sempre l'anno dopo, lo so, noi abbiamo invitato, non dico per dire, non l'avevamo detto, ma insomma, quando anche il governo nel 2009 diceva il 2010 sarà l'anno della ripresa, invitavamo alla prudenza, i segnali non c'erano e tuttora non ci sono, di una ripresa lenta, debole, che non sarà veramente completata se non quando si risolverà anche il problema dell'occupazione e quindi dei consumi interni. Adesso passiamo alla borsa. Prima però vi leggo una notizia, sperando che non crei troppe polemiche negli ascoltatori, al 349-238-6666, è stata appena battuta dalle agenzie. Il giudizio è quello di Citigroup, quindi uno dei più grossi gruppi bancari al mondo, e riguarda il titolo Mediaset. E fin qui dite perché citate il report, visto che non lo fate quasi mai, perché è strano il motivo. Ossia, Citigroup, che è una delle più grandi banche americane, ha abbassato il voto su Mediaset, quindi consigliando non il buy ma il sell, dicendo che il polverone sollevato sulla stampa dai comportamenti del principale azionista del gruppo televisivo, che chiaramente è Silvio Berlusconi, potrebbero danneggiare il titolo. Le vicende private che coinvolgono il Presidente del Consiglio possono danneggiare il titolo. Leggo testualmente: anche se, scrivono gli analisti, vediamo poca correlazione tra i risultati a medio termine di Mediaset e il destino politico di Silvio Berlusconi, temiamo, continuano, che l'ultima serie di titoli da prima pagina che coinvolge il mister Berlusconi potrebbe essere negativo per l'azione nel breve termine, per cui portiamo da buy, da compra a hold, tenere il giudizio sull'azione Mediaset e riduciamo il target da 6 euro a 5 euro e mezzo. È la prima volta che leggiamo una cosa del genere, insomma, a memoria d'uomo, ecco perché l'abbiamo citata, fermo restando tutta la nostra distanza, dubbi e quant'altro dai report delle banche d'affari su titoli quotati in borsa, finché non ci dicono quanti ne hanno loro in portafoglio. Adesso la borsa. -1,3% Milano chiude male la settimana e la giornata, perché Parigi è invariata, Francoforte più 0,3, Londra è invariata, Dow Jones meno 0,1 e tra l'altro questa mattina Tokyo, sulla scia del buon andamento delle borse ieri in Europa, aveva chiuso con un più 2,90%. Euro quota 1,40, come sempre con Radio Cori sulle 24 ore. Paolo Paronetto, buonasera. Buonasera a tutti. Che è successo alle banche italiane? Sì, le banche italiane sono state decisamente il fattore che ha trascinato al ribasso il listino milanese, che ha perso molto di più rispetto ai listini europei. È una tendenza cominciata circa a metà della mattina e gli operatori citano rinnovate tensioni soprattutto sulle situazioni dei debiti e dei deficit pubblici dei paesi periferici dell'Eurozona. In mattinata sono tornati a salire sia gli spread tra i titoli di Stato di questi paesi e il corrispondente Bund tedesco, sia il valore dei CDS, quindi i contratti per assicurarsi dal default di questi paesi, in particolare quello dell'Irlanda ha fatto segnare un nuovo record storico, e alcuni analisti stanno tornando a vedere per l'Irlanda un percorso simile a quello seguito dalla Grecia, quindi la possibilità di un intervento internazionale. Questo ha penalizzato tutti questi i paesi cosiddetti PIGS, sia anche Madrid infatti ha perso molto terreno, più di quanto abbia perso Milano, e il listino milanese si è allineato a questa tendenza. Sì, devo dire che la situazione dell'Anglo-Irish Bank sembra ancora irrisolta in Irlanda, e questo sta trascinando tutto il settore. Un po' pesanti però i cali, Paolo, perché Monte dei Paschi meno 4,3, UBI Banca meno 4. Su Monte dei Paschi continua a circolare l'ipotesi di un aumento di capitale dopo che l'ha fatto il Banco Popolare? Sì, questa è ormai una costante, c'è sempre, la banca continua a smentire, ma sul mercato si continua a fare i conti con questa possibilità. E poi Intesa, diciamo, meno 3%, Unicredito meno 3%, tra l'altro stasera, tra pochi, adesso dovrebbe iniziare a Torino, nel corso di un convegno interverrà Alessandro Profumo, chissà se dirà qualcosa sulla sua ex banca o sulla situazione politica. Andiamo avanti. Telecom Italia meno 2,5, Italcementi meno 2, come in pregiro 1,90 lo perde Mediobanca, l'1,80 A2A e Finmeccanica, l'1,60 il calo di Fondiera, sai, e Bulgari, l'1,3 quello di Buzzi, Unicem e di Atlantia. Chi ha guadagnato oggi in borsa? Tenaris più 3,1 e il nostro giallo, ma non faccio ripartire la sigla della Pantera Rosa, Fiat più 2,1%, Fiat più 1,6%, Exor più 1% Campari. Su Fiat nessuna novità, tanto insomma lunedì esce la trimestrale di Chrysler, il debito dovrebbe essere più basso degli ultimi 18 mesi, ma novità di rilievo? No, nessuna novità particolare, come molti segnalano sempre movimenti tecnici anche legati alla scissione, come di cui parlavamo anche di recente. In più diciamo che ieri sono arrivate le parole dell'amministratore delegato Sergio Marchionne, che ha rassicurato per quanto riguarda gli ultimi dati sulle immatricolazioni, anche che avevano un po' preoccupato il mercato. Marchionne ha detto che il mercato che si sta realizzando in questo momento e anche le stime sul 2011 sono totalmente in linea con le previsioni e che non c'è niente di anomalo, quindi in questo ha un po' confortato le attese degli investitori. Eh sì, è arrivato nel frattempo anche il messaggio 349-238-6666 che manda ogni giorno Fabio chiedendo le mie dimissioni, quando non arriva mi preoccupo, e dice: se parlate del mistero di Fiat ed Exor lei non ha capito niente, ed è infatti non ho proprio capito niente, per questo che continuo a chiedere perché un gruppo che è al livello più basso nella quota di auto vendute in Italia dal 2005 continua a salire in borsa incurante le immatricolazioni. Se qualcuno me lo spiega capisco anch'io, lo so. Adesso il traffico, poi Paolo altri titoli, c'è Telecom che continua a scendere nonostante i conti di ieri, e Enel Green Power, volete sapere, purtroppo anche oggi il titolo non è che abbia fatto proprio i numeri, diciamo. 349-238-6666, il traffico. Allora, di nuovo in diretta, Paolo Paronetto, dicevamo Telecom, i conti ieri non erano male, ma il titolo insomma continua a perdere, e poi è nel Green Power, vediamo se lo facciamo anche fare Arena. Sì, per quanto riguarda Telecom il titolo ha perso il 2,54% a 1,036 euro, i conti non erano male, ma diciamo che il mercato si è concentrato sulla debolezza mostrata sul mercato domestico, in particolare sulla telefonia cellulare. Inoltre oggi molti giornali hanno riportato la notizia che proprio probabilmente per far fronte a questa situazione da Telecom è in uscita il responsabile di TIM, quello che doveva risollevare la quota di mercato di TIM sul mercato nazionale, cioè Fabrizio Bona, che lascerà la società. Quindi evidentemente queste notizie, questi aspetti della trimestrale hanno prevalso e oggi il titolo è stato venduto dagli investitori. Per quanto riguarda Enel Green Power, sì, un andamento simile a quello di ieri, il titolo per gran parte della seduta è stato in calo anche attorno e oltre il punto percentuale, poi sul finale ha recuperato, questa volta non è riuscito a chiudere sulla parità, ha chiuso in calo dello 0,31% a 1,595 euro. Allora, insomma, un po' scontenti anche gli azionisti, non so, di Enel Green Power. Vediamo un po' il resto. Credito Valtellinese perde il 3,20, Banco Santander il 3,5, oggi non è ragionata per le banche, e poi Beghelli 4,35. Molto bene, Diasorin più 10,20, Green Vision più 6,5, TAS più 5,70 e Arena appunto più 4,3%, la Brembo più 3,90%. Grazie a Paolo Paronetto e buon fine settimana a tutti i colleghi dell'agenzia di stampa Radio Corriere Sole 24 Ore. Grazie a voi. Adesso una parte che iniziamo in questa ora e poi continuiamo nella seconda parte. Ci occupiamo del Veneto, del disastro causato da due giorni di pioggia ininterrotta tra i 350 e 400 mm e dei danni che ha causato al territorio, ma anche delle riflessioni che sono state pubblicate in questi giorni sui giornali sul modello, il modello del nord-est. Da una parte i veneti che dicono ci avete lasciato soli, noi non gridiamo, non bruciamo i rifiuti, riferimento chiaramente alla Terzigno, non blocchiamo, non ci scontriamo con la polizia, ecco perché ci ignorate. Dall'altra parte un ragionamento che noi abbiamo trovato un po' malizioso, che è il ragionamento, eccolo lì, il nord-est, il famoso nord-est, il modello Baviera, il modello inarrivabile, modello perfetto, vedi come crolla sotto la pioggia, vedi il disastro che hanno fatto anche loro. Non esiste un'alternativa nord-est, non esiste un modello diverso, è parte del paese come il resto, e adesso l'hanno capito anche i veneti. In alcuni commenti forse anche un pizzico, quasi lo dico un po' forte, di soddisfazione. Allora, questo è un programma di economia, andiamo con ordine, quindi la prima cosa che ci interessa è capire il livello del danno dopo le ultime cifre che abbiamo visto, appunto almeno un miliardo di euro e soprattutto i soldi che per ora sono solo 20 milioni. Sentiamo Andrea Tomat, presidente della Confindustria Veneto, al microfono della nostra Deborah Rosciani, dire attenzione. Questi soldi sono proprio l'inizio, ma la cosa ci interessa anche perché oggi sul Corriere della Sera Tomat e vari altri esponenti della cultura, dell'imprenditoria del Veneto hanno fatto un appello per ripensare, oltre che per non essere lasciati soli, per ripensare il modello, una nuova cultura della prevenzione, della salvaguardia che coniughi amore per l'ambiente, sviluppo, ecologia e innovazione. Sentiamo Tomat sui soldi. 20 milioni di euro sicuramente non è un ammontare sufficiente da quanto risulta dalla prima ricognizione dei danni. Sicuramente è una cifra estremamente modesta e francamente non so che cosa possa essere indirizzata. Possiamo prenderla come misura di primissima urgenza, ma certamente dobbiamo pensare ad uno stanziamento assolutamente diverso. Ecco, per le prime emergenze effettivamente il Consiglio dei Ministri aveva precisato, per esempio per il Veneto, che cosa potranno immediatamente servire. Ma guardi, c'è sicuramente una spesa direi rilevante per la rimessa in pristino della situazione attuale, quindi c'è da spostare l'acqua, da liberare fabbriche, da pulire, rimettere diciamo in un minimo di praticabilità una serie piuttosto estesa di territori, e questo sarà già un intervento piuttosto importante, oltre alle emergenze per gli argini e per diciamo le situazioni che si sono danneggiate, che potrebbero essere particolarmente rischiose nel caso si dovesse manifestare precipitazioni importanti anche nelle prossime settimane. Poi da lì bisogna invece pensare a come rimettere in condizione le imprese e la società civile per ripristinare le abitazioni e la funzionalità appunto dell'attività economica. Eh sì, 131 comuni colpiti, 500.000 di persone, gli sfollati tuttora sono 3.000 e alcune evacuazioni sono ancora in corso, e anche perché su alcuni fiumi l'allarme resta molto molto elevato. Restiamo sugli esponenti del mondo della produzione e poi passiamo a uno scrittore invece, a un osservatore. il presidente della Confartigianato Vicenza è in collegamento con noi, Giuseppe Sbalchiero, buonasera. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, 20 milioni sono le briciole, visti i danni che stimate. Com'è? Ah, guardi. Mi dica. Ecco, allora, intanto c'è da dire che i nostri imprenditori, tutte le maestranze, stanno finendo in questi giorni di ripulire le aziende dal fango, perché l'acqua è andata via, ma è più difficile pulire il fango. Quindi sono ancora lì che si stanno adoperando per rimettersi nelle condizioni di valutare i danni per poi riprendere l'attività. Quindi la grande pulizia prima di tutto. Successivamente poi c'è un secondo aspetto da valutare, che sono previste ulteriori piogge anche per la settimana prossima e speriamo che non ci sia la somma delle concomitanze che hanno avuto la settimana precedente con il disastro che è avvenuto. Di sicuro non ci sarà la neve. Beh, insomma, non tutto assieme almeno, però abbiamo visto delle immagini anche molto belle, le abbiamo raccontate anche con i nostri GR in questi giorni, e mi riferisco ai volontari che hanno dato una mano venendo anche da altre regioni, agli extracomunitari che si sono messi a lavorare, questo anche per senza populismo, ma visto che ogni tanto dal Veneto qualche intolleranza è arrivata, per essere buoni è giusto anche ricordarlo. Che cosa chiedete? Cioè, pulite i capannoni dal fango, poi? E poi ovviamente la solidarietà va sempre apprezzata e ne abbiamo avuta molte anche noi. E credo sia importante adesso però guardare avanti, fare la conta dei danni e poi cominciare a capire come affrontare la situazione di emergenza. Noi ci stiamo attivando come Confartigianato Vicenza e abbiamo avuto anche solidarietà da altre Confartigianato d'Italia, ma anche da altre organizzazioni. Le banche hanno dato le proprie disponibilità, è chiaro che comunque tutto questo riguarda il danno materiale, manca tutta la conta dei danni patrimoniali che sono ingenti, il fermo per le attività e il riavvio della produzione. Quindi su questo ci aggiorneremo magari nei prossimi giorni. Sta di fatto che oggi noi aspettiamo una risposta da parte del governo importante, perché non vogliamo lasciare sole le nostre aziende. Sì, allora facciamo una cosa, io adesso devo lasciare la linea al GR, poi ritorniamo a parlare con lei. È innegabile, lo dico a chi scrive, che si siano rimboccati le maniche, che insomma non abbiano atteso il governo, i militari e quant'altro. Poi se volete fare polemica su questo la facciamo, ma dopo il, lo dico agli ascoltatori, dopo il GR 349-238-6666 per i vostri sms, resti con noi Presidente Sbalchiero. Minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. E allora, ci stiamo occupando del Veneto sott'acqua o ancora parzialmente sott'acqua, sia sull'aspetto economico e quindi pratico, concreto, sia sulle riflessioni che questa alluvione ha scatenato sui giornali sul modello addirittura del Nord-Est. Devo dare però un aggiornamento d'agenzia, perché poco fa il ministro Alfano, ministro della giustizia, ha annullato tutto il test per i notai, insomma ce n'era di che annullare, ha salvato il bando di concorso e ha rinnovato per intero la commissione, ha trasmesso poi gli atti in suo possesso alla procura di Roma, che sta indagando sul concorso truccato. Detto ciò, torniamo a occuparci della situazione del Veneto, in particolar modo nelle province interessate, e anche del cosiddetto modello in crisi. Io mi sono salvata perché sono 24 ore che non ho mollato, perché avevo due pompe e le tavole, gli altri no, non sono stata allertata da nessuna protezione civile. Lei personalmente quanti danni ha avuto, proprio in termini economici? Almeno 30-40 mila euro di danni, come l'altra volta. L'altra volta mi hanno risarcito un 30%, questa volta non lo so cosa faranno. Ci troviamo alle casette dell'ex Cotorossi, una delle zone più colpite di Vicenza. Qui c'è Luca Poncato, avvocato, stava per inaugurare uno studio nuovo di zecca. Nuovo di zecca, ci siamo trasferiti qua circa 6 mesi fa, avevamo appena finito di ristrutturare l'ufficio, ufficio nuovo, e abbiamo perso tutto. Danni? Danni, distrutto tutto, dall'archivio alle pratiche dei clienti, e abbiamo speso circa gagliardi 100.000 euro e tutto da rifare. Queste erano alcune delle voci che in questi giorni vi abbiamo fatto ascoltare, voci raccolte in questo caso dal nostro Paolo Usinabia, voci di delle persone più diverse, a raccontare l'emergenza. Adesso che l'emergenza, non dico che sia rientrata, ci mancherebbe, ma è un po' più sotto controllo, vorremmo capire anche altro. Poco fa il presidente della Confartigianato Vicenza ci raccontava di quello che stanno facendo e di quello che anche attendono. Abbiamo sentito il presidente degli industriali veneti Tomat dire che insomma 20 milioni sono l'inizio, l'assaggio. Si è aperta un'altra non dico polemica, ma un'altra riflessione. Devo dire che l'ha aperta lo scrittore veneto, nato nel 1935 a Montagnana, Fernando Camon, dicendo: attenzione, queste sono le colpe di una regione che si scopre vulnerabile. E allora cerchiamo di capire se questa alluvione sia anche il pretesto per alcuni di dire: vedete che il modello del nord-est non è un modello che funziona poi così bene, che non è un modello così diverso. Ringrazio innanzitutto per averci raggiunto anche Fernando Camon, buonasera. Buonasera a voi. E poi anche il collega Stefano Lorenzetto, che ha appena pubblicato un libro, la casa editrice Marsilio, Cuor di Veneto, anatomia di un popolo che fu nazione. Stefano, buonasera. Buonasera. La voce, Stefano, è un po', alziamo un attimo il volume del collegamento con Lorenzetto. Allora, Camon, cosa vuol dire le colpe di una regione che si scopre vulnerabile? È il modello che lei contesta? Il modello di sviluppo? Questa inondazione ha gettato nel panico le province che ha travolto, perché è giunta in attesa, è stata massiccia, ha creato danni enormi, e qui eravamo abituati a sentirci dominatori, vincenti, inattaccabili, non suscettibili di disgrazie come tante altre parti d'Italia. E questo cataclisma ci ha fatto sentire a tutti che siamo come gli altri, insomma. Ma non credo che si possa dire che il modello è fallito, perché non è un fallimento di un progetto del Veneto o del Nord-Est. Qui si tratta di fare un'opera di prevenzione che 10 giorni fa, prima di questa sventura, veniva calcolata in 10 miliardi di euro. Però ieri ho visto sui giornali, Corriere della Sera, la Repubblica, così, che il calcolo è serio, occorrerebbero 5 miliardi di euro. Bene, non sono mai stati spesi, non è mai stata fatta una prevenzione. I fiumi che hanno straripato erano pensili in molte zone, noi ci passavamo sopra i ponti e vedevamo che l'acqua era più alta dei campi intorni. E questi sono è un debito che la regione si porta dietro da sempre e che non ha mai affrontato. Prima o poi dovrà affrontarlo. Allora, su questo devo dire che l'ex governatore Galan ha fatto notare sulla stampa in questi giorni di aver investito 400 milioni di euro nella regione negli ultimi 5 anni per la messa in sicurezza del territorio. Allora, poi sentiremo anche Sbalchiero. Stefano Lorenzetto, tu che da anni la percorri tutta quella regione, tutto il nord-est, insomma, hai notato una voglia anche di ridefinire il modello, di dire: vedete che non siete poi così diversi, al di là della diversità, del fatto che è vero che nessuno ha bruciato o ha avuto scontri con la polizia, che si sono messi a pulire e a ripulire subito senza attendere tanti soccorsi, ma insomma quasi un po' di malizia per dire: eccoli lì finalmente anche loro. Stefano. Ma io sono atterrito da questa moda di trarre conclusioni definitive da eventi quotidiani. La Terra misura il tempo in millenni e in ere geologiche. Vorrei di passata ricordare che la più grande alluvione che questa nazione abbia patito avvenne nella mia regione, nel Polesine, nel 1951. Ma forse bisognerebbe anche ricordarsi che un signore che si chiamava Leonardo da Vinci scrisse qualche annetto fa che l'acqua disfa i monti e riempie le valli e vorrebbe ridurre la terra in perfetta sfericità, se la potesse. Quindi la terra continua a fare esattamente il mestiere descritto da Leonardo da Vinci, cerca di fare la perfetta sfericità della superficie terrestre riempendo le valli dell'acqua che scende dai monti. E bisognerebbe anche ricordarsi che in Italia dal 1918 al 94 ci sono state 9.086 frane e 6.456 inondazioni. Quindi è un fenomeno con il quale tutta l'Italia, e non solo il Veneto, e che vorrei dire tutto il mondo, perlomeno dove piove, fa i conti quotidianamente o comunque stagionalmente. Sì, Stefano, però voglio fare il provocatore, come sempre in questo programma, e dire, attenzione, c'è chi ha detto, vedete, il modello fatto di capannoni sterminati senza, diciamo, nessun tipo di sicurezza, di salvaguardia del territorio, poi porta anche a questo. E oggi c'è l'appello delle personalità che sono Tomat, Mazzacurati, ma anche diversi rettori, per dire cerchiamo di assieme di trovare un modello che coniughi progresso, quindi innovazione, sviluppo, ma anche ecologia. Come se questo dubbio si fosse insinuato, e non vorrei lasciarlo cadere così dopo il traffico, però. Focus Economia. Minuti, di nuovo in diretta. Allora, Presidente della Confartigianato Vicenza Sbarchiero, il dubbio, un ripensamento su un modello che è stato prorompente, tumultuoso, una crescita mai vista, gli ex terroni del nord che diventano metalmezzadri e poi diventano padroni, insomma tutto questo forse, come denunciano alcuni scrittori, non solo da alcuni anni, senza tenere in conto il territorio? Ma io non sono d'accordo con queste ipotesi, perché sono convinto che il nostro mondo, che ha prodotto, che ha lavorato, è stato anche attento al territorio. Non a caso è stata un evento del tutto eccezionale, abbiamo visto, perché la neve, perché il scirocco che impediva, perché hanno rotto gli argini, che ha causato questa situazione di disagio. L'altra, ricordiamola, è avvenuta trentina d'anni fa. E non c'è scarsa attenzione. Ovviamente qual è il problema di fondo? Che la presenza delle nostre imprese su tutto il territorio è chiaro che incide maggiormente rispetto a un territorio che ha meno aziende. Questo è naturale. Sappiamo anche che molte delle nostre aziende familiari hanno il laboratorio e la casa vicine. Quindi il problema di fondo è che oggi è stato colpito sia il laboratorio, sia il magazzino, che anche l'abitazione. Sì. Quindi il danno è doppio. Ecco, sono queste le cose che fanno riflettere. Allora, Fernando Camon, intanto vorrei sapere se la pensa così, perché lei dice, insomma, ci sono delle colpe di una regione, ma poi in questa critica, lamentela per alcuni, che sta arrivando da molti esponenti del Veneto, non lasciateci soli, ci state ignorando, diverso trattamento tra Terzigno e invece l'alluvione nel Vicentino, secondo lei c'entra anche la difficoltà che ha, come lei ha scritto, insomma, il Veneto di comunicarsi, di comunicarsi oltre che di farsi? Dunque, sono tante questioni. Primo, anch'io non sono d'accordo con chi muove la critica al progresso, che sarebbe stato sbagliato. È incompleto, ma non è sbagliato, ed è stata una gran bella cosa. Ci ha liberato dalla miseria, non bisogna tornare indietro, bisogna andare avanti e completarlo. Secondo, la nazione che dice eccoli lì anche loro eccetera, questo è vero, questo ha a che fare con l'antipatia di cui non solo noi veneti, ma noi del nord-est, insomma, dei tre veneti, insomma, godiamo o patiamo da parte della nazione. C'è stato questo progresso, il Veneto se n'è anche smisuratamente vantato. E lo ha usato erroneamente, arrivando a più riprese a minacciare la secessione. Oggi un giornale locale fa notare l'enorme contraddittorietà di una giunta comunale che, ricevendo delle bandiere nazionali, le ha piegate in maniera tale che fosse visibile soltanto il verde. Questo per dire siamo separati dallo Stato, però contemporaneamente tutte le autorità chiedono soldi allo Stato, dicono che c'è bisogno di aiuto, che il Veneto vanta un credito annuale, insomma ha un miliardo e due, sì. Ha un attivo enorme nello Stato tra il dare e il ricevere, che bisognerebbe che lo Stato desse. Io faccio notare l'incongruenza che c'è tra il dire, come dicevano due settimane fa quando hanno lanciato lo slogan, prima i veneti e dopo gli altri, se ci sarà spazio, se ci saranno risorse, che vuol dire prima i veneti e gli altri si arrandino. E poi quando arriva questa grande disgrazia anche i veneti a chiedere l'aiuto dello Stato come tutti. E io credo che questo sia giusto, che l'aiuto vada dato, che la separatezza è ora di finirla, che il Veneto e le Tre Venezie sono regioni come le altre, più virtuose, danno di più, pagano più tasse, il loro rapporto dare-avere con lo Stato è a loro vantaggio. Ma non sono assolutamente d'accordo, è una vecchia querela questa, insomma, che il progresso sia stato un errore, sia stato sbagliato, sia stato una maledizione. Il progresso è stato benefico, il Veneto non è più miserabile e questo è un immenso bene. Non c'è più la pellagra all'immigrazione. Allora... la melana, le malattie, le infezioni ai lati della bocca, i geloni alle mani, le case... senza pavimento. Io ho vissuto in una casa senza pavimento per terra, aveva la nuda terra, noi camminavamo sulla nuda terra dentro le stanze a pian terreno, questo fino a quando io facevo tra la scuola media e il ginnasio. E io dunque non sono certo uno che anela il ritorno a quel tempo. È quello per le anime belle. Devo dire che lei ha ragione nel mettere in evidenza come insomma un po' di incongruenza. Nessuno sta mettendo in discussione, chi scrive al 349-238-6666, nessuno sta mettendo in discussione il federalismo come processo. Si dice che se tu per tanti anni continui a dire ma noi non vogliamo far parte del resto e poi chiede aiuti al resto, ecco, qualcuno ogni tanto può dire eccoli lì. Stefano Lorenzetto, sono diventati o siamo diventati antipatici, come diceva Camone, ed ecco perché tutti si scagliano sul modello quando vedono che i fiumi esondano, che c'è un miliardo di euro di danni almeno, oppure è semplicemente pretestuoso. Io non vorrei diventare monotono, ma prima di questo collegamento ho guardato l'ANSA degli ultimi 20 anni. Le notizie che hanno la parola alluvione nel titolo sono 1779. Ho trovato alluvioni in Valtellina, Liguria, Savona, Genova, Piemonte, Sarno, Soverato, Carrara, Molise, Trani, Messina, Crotone, Versilia, Lombardia, dappertutto, tranne che in Alto Adige. Ora la domanda è, non piove in Alto Adige? Piove anche in Alto Adige. Piove. Bene. Allora, se l'ingegner Mauro Roncava, che è del genio civile della mia città, dice che tutto questo di cui stiamo parlando si poteva evitare a condizione che invece di ricevere dallo Stato 380.000 euro, che è precisamente quello che la provincia di Verona ha ricevuto l'anno scorso per le opere di difesa, avesse ricevuto i 3-4 milioni di euro che ha sempre ricevuto in passato, non saremmo qui a fare questa trasmissione. La verità è che in questo paese c'è soldi per tutto, tranne che per la salute, per la famiglia, per il territorio e per la cultura. Le opere di difesa però non le fa solo lo Stato. E abbiamo avuto generazioni di montanari che hanno pulito durante l'inverno i sentieri di montagna, hanno drenato i torrenti, hanno scavato le canalette fluviali, tagliavano con delle incisioni diagonali le strade di montagna in modo che le strade di montagna, quando ci sono precipitazioni abbondanti, non si trasformassero in toboga. Pulivano i fossati, quelli che di solito sono secchi, ne ho uno qui vicino a casa mia, il Val Pantene, che è secco tutto l'anno, io non ci ho mai visto l'acqua e 3 giorni fa sembrava un fiume amazzonico, quindi un vero miracolo che non sia esondato, facevano queste opere di difesa del territorio. Ovviamente noi non abbiamo più questa generazione di persone abituate a piegare la schiena per fare queste opere gratis di protezione del territorio su cui vivevano e lavoravano, probabilmente perché non abbiamo più un certo tipo di agricoltura e neanche un certo tipo di zootecnia o un certo tipo di presenza umana in montagna. E come diceva il vescovo di Vicenza ai funerali di Antonio e Maria Rosa Maso, genitori di Pietro Maso, a Montechia di Crosare, io me lo ricordo, ero lì per il Corriere della Sera, cominciò la sua omelia dicendo è dura la terra, è bassa la terra. Ecco, non mi sembra che sia una prospettiva desiderabile per le nuove generazioni lavorare su una terra, su qualcosa di duro e di basso, e noi patiamo tutti i giorni le conseguenze di questo. Dopodiché Galan, che è stato governatore di questa regione, ha ragione a dire che in 5 anni ha speso 400 milioni la regione per fare queste opere difensive, ma se in Alto Adige i soldi che sono stati spesi non danno origine ad alluvioni, significa che probabilmente hanno speso qualcosa di più. Lorenzetto, Stefano, però alcuni ascoltatori dicono due cose. Attenzione, ma la differenza tra i soldi che riceve l'Alto Adige per le opere di manutenzione del territorio sono enormi rispetto a quelli che ricevono in Veneto. Se il tuo assessore diceva che ha ricevuto per la provincia di Verona 380.000 euro contro i 3-4 milioni che riceveva prima, questi sono i tagli anche in finanziaria, o no? Certamente. Ma il problema è che dovrebbero non essere abolite le regioni a statuto speciale, ma dovrebbero diventare a statuto speciale tutte le regioni. Cioè, se abbiamo stabilito questa sera che in Alto Adige negli ultimi 20 anni non ci sono state alluvioni, è perché il territorio viene difeso, e se viene difeso è perché hanno più soldi. Ebbene, bisogna ripartire i soldi in modo tale che le regioni dove c'è più bisogno possano fare queste opere di difesa. Insomma, è un problema di quattrini, è un problema di stanziamenti. Cioè, per mettere giù le burghe, che sono quelle grandi reti d'acciaio piene di ciotoli che vanno posizionate dove ci sono le fenditure degli argini dei fiumi, ci vogliono gli elicotteri. E qui invece io ho visto i mezzi anfibi che attraversavano il centro di Soave allagato come se fosse Venezia, e ho visto scritto sulle fiancate dei mezzi Regione Lombardia, perché nella Regione Veneto evidentemente i mezzi anfibi dei vigili del fuoco non ci sono. E quindi di cosa stiamo parlando? L'imprevidenza umana si traduce esattamente in questo, in quello che abbiamo visto in questi giorni. Ma non dobbiamo dare la colpa né al tempo né al modello. Ecco. Grazie a tutti. Potremmo andare avanti per ora, ma mi interessava molto, oltre che l'aspetto economico, l'abbiamo affrontato, anche la riflessione sul modello. Grazie. E in bocca al lupo soprattutto al presidente di Confedegenerato Vicenza, ai suoi associati, a tutti gli imprenditori che operano sul territorio, Giuseppe Sbalchiero. Grazie allo scrittore Fernando Camon e grazie al collega Stefano Lorenzetto, che appunto è autore di un libro, Cuor di Veneto, Anatomia di un popolo che fu nazione. E allora vedo tantissimi messaggi, molti scrivono dalla Valtellina. Attenzione che qua in Valtellina dopo l'alluvione ci hanno mangiato, ci hanno rubato, ecco, speriamo che non si ripeta anche questa pratica. A me non resta che ringraziare Barbara Bianchi e Mauro Del Corno per l'assistenza come sempre in redazione, e chiedere a Giuseppe Cruciani, visto che noi siamo occupati di alluvione, di quali alluvioni ti occuperai oggi? Beh, la solita politica, ci sono alcune frasi importanti pronunciate oggi da Berlusconi, che ha rilanciato sulla legge contro la prostituzione e poi ha aperto sulla liberalizzazione del Wi-Fi, e c'è la curiosa posizione da parte del procuratore antimafia Grasso, che dice che è un errore la liberalizzazione del Wi-Fi. Ne parleremo dopo. Eh sì, perché temo di non riuscire più a intercettare. Grazie Giuseppe Cruciani, da Sebastiano Berigioni lo auguro di un buon fine settimana, ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.